Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Alcune scoperte aprono orizzonti molto ampi e nuovi, anche se poi non è detto che questi orizzonti si rivelino facilmente percorribili. Ma certo il recente annuncio dell'Università del Minnesota è classificabile tra le grandi novità, direi certamente. Parliamo di una lega dotata di una proprietà del tutto nuova. Questa lega è composta da nickel, cobalto, manganese e stagno, quindi insomma materiali non certo esotici. Voi prendete un pezzo di questo materiale, lo scaldate e raggiunta una certa temperatura, più o meno un centinaio di gradi, 150 gradi, inizia questo materiale a produrre un potente campo magnetico. Lo raffreddate e il campo magnetico scompare. Questo fatto può apparire una curiosità, ma potrebbe invece avere importanti applicazioni nel settore della produzione di energia elettrica. Il come e il perché ce lo facciamo spiegare dal professor Ezio Puppin, docente di fisica al Politecnico di Milano e anche presidente del CNISM, il Consorzio dei Fisici della Materia Italiani. Buonasera Puppin. Buonasera. Allora Puppin, la prima cosa che le chiedo è un ripassino, diciamo così, di fisica 1. Perché avere un materiale che si magnetizza e si smagnetizza facilmente può essere utile a produrre energia elettrica? Perché esiste un fenomeno fisico che si chiama induzione elettromagnetica o effetto Faraday. Per capirci, pensiamo di avere una spira fatta da un filo metallico. Una bobina di filo metallico, sì. Una bobina. E a questa gli attacchiamo una lampadina. Allora, se io faccio passare una calamita abbastanza rapidamente vicino alla bobina, vedo un piccolo lampo di luce nella lampadina. È stato proprio così che Faraday 150 anni fa ha scoperto questo effetto, che poi è alla base di tutte le moderne applicazioni dell'elettrotecnica, quindi motori elettrici, trasformatori, tutte le cose che ci stanno intorno e che fanno muovere l'intero mondo. La stessa cosa, invece di passare una calamita vicino alla bobina per far accendere la lampadina, la si può ottenere mettendo dentro nella bobina una calamita, e nel momento in cui questa calamita, per una qualunque ragione, viene trasformata in qualcosa che non è una calamita, oppure qualcosa che non lo è viene improvvisamente trasformata in una calamita, si ottiene lo stesso effetto, cioè si ha un passaggio di corrente, e quindi vuol dire che si è stati in grado di convertire qualche forma di energia in energia elettrica, che è quella che ha fatto accendere la lampadina. Lei in qualche modo sta descrivendo l'esperimento che è stato fatto dall'Università del Minnesota, no? Era una roba simile? Certo, in quell'esperimento loro hanno messo dentro nella bobina un materiale da loro scoperto, molto particolare, che rientra in una categoria di materiali assai strani come comportamento, che si chiamano materiali multiferroici. E questi materiali, questo materiale da loro scoperto, messo a una certa temperatura, diventa improvvisamente una calamita. Allora, se questo avviene all'interno della bobina che dicevamo prima, il tutto fa nascere una corrente all'interno del circuito che fa accendere per un breve istante la lampadina. È un passo avanti molto importante, perché ci indica una nuova strada sulla quale possiamo avviarci per tentare di realizzare dei dispositivi efficaci per convertire in questo caso l'energia termica in energia elettrica. Ecco, e qui la cosa interessante è che sarebbe possibile sfruttare l'immenso quantitativo di calore di scarto che produciamo nei processi industriali, ma che produciamo a casa, che producono le marmitte delle automobili, per intendersi, per produrre energia elettrica. Il potenziale in gioco è immenso, perché gli scarti di calore a livello mondiale sono stimati in 15.000 gigawatt, è un numero veramente incredibilmente alto. Ecco, però, dicevamo, siamo solo agli inizi. Certo, per ora siamo solo all'inizio, perché è stata fatta una scoperta che ha, diciamo, permesso di osservare un nuovo principio fisico. Tra questo e la realizzazione di macchine, di motori, di generatori basati su questo principio, passerà probabilmente del tempo. Grazie, professor Puppin. Prego. Bene, andiamo avanti con la seconda notizia di oggi. Protagonista in questo caso è il silicio, lo stesso dei pannelli fotovoltaici, ma in una forma decisamente nuova e nanotecnologica, messa a punto a Milano, all'Università della Bicocca, e su cui è già partito un progetto di sviluppo industriale in partnership con ERG. Parliamo ancora una volta di trasformazione diretta dell'elettricità in calore, ma attraverso un altro fenomeno fisico, l'effetto Seebeck, che si studia da anni e di cui abbiamo già parlato. Ci parla di questa nuova invece tecnologia Dario Narducci, professore di chimica fisica dell'Università La Bicocca ed esperto di nanotecnologie. Buonasera Narducci. Buonasera. Allora, ci spieghi un po' di che materiale stiamo parlando. Stiamo parlando di un materiale classico che è il silicio, che non è mai stato considerato come un materiale interessante per applicazioni di conversione termoelettrica, ma che recentemente si è dimostrato avere delle potenzialità notevoli quando trasformato in nanofili, cioè in sistemi con una sezione nanometrica e lunghezza macroscopica. Ecco, ma uno che cosa si troverebbe davanti? Niente di molto diverso da quello che vede oggi, cioè un pannello, perché gli oggetti sono microscopici, anzi nanoscopici, quindi non visibili, però all'interno ci sono questi fili che appunto vanno da un lato all'altro del pannello e che sono quelli che generano per appunto la differenza di potenziale e quindi la corrente elettrica. In che cosa questa tecnologia sarebbe superiore agli altri sistemi di produzione termoelettrici? A me piace di più il termine termovoltaici. Sì, un vantaggio rispetto ai materiali tradizionali è un vantaggio di reperibilità. I materiali che vengono oggi utilizzati per i pannelli termoelettrici o termovoltaici, se preferisce, che vengono impiegati adesso, sono basati su materiali di scarsa reperibilità, telluri tipicamente. Il silicio viceversa è un materiale molto più abbondante rispetto ai telluri e quindi c'è un vantaggio di disponibilità e di costo, che ovviamente è l'altro aspetto. In più, la tecnologia che abbiamo sviluppato consente di passare dalla realizzazione, diciamo così, artigianale dei singoli nanofili a una produzione che è compatibile con gli standard industriali della microelettronica. Grazie Dario Narducci. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.